commerciale perché mi piace. Sono il commerciale perché sono incapace. Sono commerciale e me ne vanto. Sono il commerciale nel frattempo canto. Sono commerciale, sono commerciale. Se allora piace molto male il commerciale. Se sono il commerciale sai che è molto male. Ti piovono su critiche e sembra un temporale. È banale, nulla di speciale. Facile cantare, senza amore batti il cuore sulle mani e puoi ballare. Sparare a zero non sarà nel mio pensiero. Ma davvero non capisco perché si vede sempre nero. C'ero come spero vero, da sono sincero. Sento attento senza pentimento. Dico solo ciò che penso. Ma che senso a predicare l'uguaglianza? La musica vicina e non commenta la distanza. Si dà troppa importanza, ma la sostanza è che gli originali ce ne sono già abbastanza. A saperti tirare fuori la politica non è retorica, se questa sembra sempre la stessa predica. Come cura medica non serve più la metrica, ma la dialettica che ti qualifica, mica la critica. Sono commerciale perché mi piace. Sono il commerciale perché sono incapace. Sono commerciale e me ne vanto. Sono il commerciale nel frattempo canto. Sono commerciale, sono commerciale. Se allora piace molto male il commerciale. Scusa non capisco se faccio un disco. Preferisco che piaccia e non che faccia fiasco. Me ne fisco se cantare sia donno maschio. È solo il pezzo che poi mi gusta l'orecchio. Porto con rispetto, poi non getto merda certo. Esperto, aperto, di vedute ed accetto tutto. Ama il motto vivi e lascia vivere. Se decidere di scrivere, se piangere puoi ridere. Non ledere, quello sì che è importante. Canta a te nessuno, tranquillo leva niente. Con me tutte le polemiche sono spente. Vivo ugualmente con la gente ignorante. Una costante, questa è la società. Vivrai più sereno se la gente tutto qua. Sono commerciale perché mi piace. Sono il commerciale perché sono incapace. Sono commerciale e me ne vanto. Sono il commerciale nel frattempo canto. Sono commerciale, sono commerciale. Se allora piace molto male il commerciale. Parolo strafottente, poco intelligente. Lascerò pensare che sono incoerente. Ma sarò coerente se presenti che ti dico non sputo nel piatto dove mangeresti anche tuo amico. Fico mito, dico facile puntare. Dico puoi iniziare a criticarmi tanto quasi già finito. Sono commerciale perché mi piace. Sono il commerciale perché sono incapace. Sono commerciale e me ne vanto. Sono il commerciale nel frattempo canto. Sono commerciale, sono commerciale. Se allora piace molto male il commerciale. Sono commerciale perché mi piace. Sono il commerciale perché sono incapace. Sono commerciale e me ne vanto. Sono il commerciale nel frattempo canto. Sono commerciale, sono commerciale. Se allora piace molto male il commerciale.